Unità 2. Pronuncia. Traccia 17. 1. Volete una matrimoniale? Volete una matrimoniale? 2. Vuole una camera con balcone? Vuole una camera con balcone? 3. Pagano in contanti? Pagano in contanti? 4. C'è il telefono in camera. C'è il telefono in camera. 5. Vorrebbe una camera con vista. Vorrebbe una camera con vista. 6. Le piace questo albergo? Le piace questo albergo? 7. È la stanza numero 45. È la stanza numero 45? 8. Prenota una stanza per due notti. Prenota una stanza per due notti?